Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi proposti da Stefano. Buonasera a tutti, ci troviamo anche stasera per un'altra puntata di Jazz e dintorni. Altre proposte musicali, altri temi, come vi ho promesso l'altra volta. Speriamo che vi interessino, come spero sia stata anche l'altra volta. Questa volta parleremo di fusion. Cos'è la fusion? La fusion è sicuramente una derivazione del jazz, molto collegata adesso, ma che in alcuni casi si allontana notevolmente o si mischia notevolmente con altri stimoli, con altre così sollecitazioni. E vedremo questa sera appunto una serie di contaminazioni, come abbiamo chiamato in passato, abbastanza diverse fra loro. Quindi la fusion è un genere che spazia molto all'interno del jazz, che ha confini non sempre chiari anche con altri generi, come vedremo. Tant'è che la fusion ha anche vari nomi, non è che si chiama solo fusion. Come tutti i generi, naturalmente è frutto di definizioni e quindi non ha barriere univoche. La fusion certe volte viene chiamata smooth jazz, certe volte viene chiamata contaminazione, ci sono acid jazz, può sfociare in vari generi, ma noi oggi ci terremo abbastanza nelle così limitazioni più vicine al jazz. E direi che potremmo anche cominciare a sentire il primo pezzo, che è un pezzo di un grande chitarrista. Si tratta di Mike Stern. Mike Stern è nato nel 1953, americano naturalmente, e ha collaborato con tantissimi musicisti, fra cui Miles Davis, ma soprattutto ha fatto moltissimi dischi come band leader. Noi lo ascoltiamo in questo caso in un pezzo tratto da un disco del 2004 che si intitola These Times, e il pezzo si intitola Street Rhyme. Sentirete subito le particolarità della chitarra di Mike Stern, che si avvicina in alcuni momenti a delle sonorità rock, ma pur rimanendo in una dimensione jazz. Street Rhyme di Mike Stern. Thank you. Mike Stern. Abbiamo sentito Street Rhyme, una chitarra straordinaria che forse mi piacerebbe commentare con degli amici che oggi sono qui con me. Oggi non sono solo, forse non sentirete una voce sola. Sto qua insieme a Gianni e Alberto, anche loro appassionati di musica, più o meno, ma sicuramente che riescono ad apprezzare questa musica. E infatti vedevo che seguivano con interesse Mike Stern. Che ve ne pare? Vi è piaciuto questo schitarramento di Mike Stern? Beh, a me è piaciuto molto. Sono di passaggio, sono un amico di Stefano e vi posso dire che l'ho visto in azione a New York, mi ha portato più di una volta a vedere dei concerti, a sentire dei concerti jazz. Uno me lo ricordo in modo particolare ed era un locale conosciuto di New York, si chiama il Jazz Standard. Non mi ricordo assolutamente chi suonava quella sera, era un anziano jazzista, non era un amante della fusion, tant'è vero che la sua battuta alla fine del concerto fu "When there is fusion, there is confusion". Sì, hai ragione. A voi giudicare. Hai ragione. E infatti era uno dei puristi jazz e sicuramente chi suona jazz puro, bebop, cool, non ha una grande considerazione per questa contaminazione con il pop, con il rock, con il folk, che invece, diciamo, caratterizza la fusion e che la rende per alcuni aspetti anche più facilmente digeribile per alcuni, che arriva più facilmente in tutto questo. E Mike Stern sicuramente è uno dei musicisti che ha contribuito ad avvicinare moltissime persone a questo genere. Tra parentesi, è importante ricordarsi che Mike Stern verrà vicino a Bruxelles per un concerto, sarà il 5 di novembre, quindi c'è tempo ancora, ma segnatevelo, il 5 di novembre sarà a Verviers per il terzo festival internazionale jazz a Verviers. Quindi alle 20 del 5 novembre la band di Mike Stern con un ospite speciale importantissimo, Randy Brecker, che è un grande trombettista, farà questo concerto, sicuramente un concerto da non perdere. Alberto, tu che ne pensi di Mike Stern come musicista? Ma a parte il fatto che sicuramente è un grandissimo chitarrista, anche perché c'ha il suo background abbastanza pieno di sorprese, specialmente proprio con il discorso della fusion. Innanzitutto parlavamo di Davis e quindi Miles Davis è un grande scopritore di fenomeni per quanto riguarda la fusion. Non ci dimentichiamo nei dischi Beaches Blue, in A Silent Way, dove escono Wayne Shorter, Joe Zawinul, Chick Corea, ma chiaramente poi il connubio che c'è stato tra Mike Stern e Jaco Pastorius, che successivamente poi sarà collega dei principali esponenti della fusion come appunto Wayne Shorter e Zawinul nei Weather Report. Quindi sicuramente è stato ottimo l'apporto di Davis, proprio perché la sua mania di creare diciamo nuove cose poi ha portato tutto il discorso della fusion, che poi si è sviluppata negli anni successivi con tantissimi altri gruppi, insomma. Sì, hai ragione, perché poi diciamo che uno dei precursori, un genere precursore della fusion è il jazz rock. No, negli anni 70 avevamo il jazz rock. Tra parentesi, posso anticipare che un giorno una delle puntate verrà dedicata proprio al jazz rock, perché sicuramente ha un ruolo importante, ci sono dei musicisti importantissimi, tra cui naturalmente Miles Davis, ma anche molti altri. Tra parentesi, tra questi c'è Billy Cobham, e Mike Stern ha iniziato a suonare anche con Billy Cobham, quindi ci sono molti legami. Esattamente, la preistoria della fusion, diciamo. Quindi. Comunque, una cosa che possiamo sicuramente dire è che anche il secondo artista che vi faremo sentire oggi è molto significativo nell'ambito dell'ambiente della fusion, e si tratta di Richard Bona. Richard Bona è un bassista, ma in realtà è un grande musicista, perché canta e suona anche percussioni, ma soprattutto è noto per essere un bassista, e noterete è camerunense e lo sentirete anche in questo pezzo, che queste tradizioni africani forti si sentono nella sua musica. Tant'è che il pezzo ha un titolo piuttosto difficile, devo dirvi la verità. Si intitola Sowedi Na Wengwe, Naturalmente spero che nessuno si aspetti di sapere che cosa significa, che non ho più palli idea. Ed è tratta dal suo primo disco come band leader. E il suo primo disco è un disco del 99 che si intitolava Scenes from My Life. E appunto Richard Bona con Soweli Na Wengwe. Richard Bona, Soweli Na Wengwe, ho provato a ridirlo così come lo cantava lui, ma non è proprio la stessa pronuncia, mi rendo conto, ed è tratto da un disco del 1999, Scenes from My Life. Avete sentito come riesce a combinare bene delle sonorità africane, no? Che ne dite? È riuscito bene questo mix oppure stride? Io ormai chiaramente non sono più obiettivo nel sentire queste cose perché mi piacciono talmente che suppongo che possano arrivare a tutti, però io trovo che questa tradizione africana in questo caso arricchisce. Beh, se posso dire la mia, io sono quello ignorante, quello che ha parlato prima del concerto di New York. Mi è piaciuto molto, è una scoperta, perché è molto africano, ritmo africano, però è stato molto rilassante, molto melodico, quindi molto, molto facile da ascoltare, e sentendolo mi sembrava forse una ideale come... come colonna sonora di un film. Bisogna vedere quale film, però è quello che mi è venuto in mente. Beh, hai ragione, perché in effetti credo che Richard Bona abbia scritto anche qualcosa per i film, sicuramente ha collaborato con vari musicisti che hanno scritto musiche molto descrittive, direi. Anche se Richard Bona è un bassista, no? Qui guarda Alberto che di basso ne sa qualcosa, visto che anche lui lo suona. Un ottimo bassista, specialmente perché fa un lavoro veramente pregevole dal punto di vista della regolarità, insomma, sembra un ottimo, in termini ciclistici sarebbe un ottimo passista, perché rende sicuramente delle linee di basso abbastanza regolari ma efficaci, specialmente su un genere contaminato poi con le ritmiche un po' africane, insomma, va benissimo, sebbene poi vedo che le sue esperienze sono anche legate alla big band con Pastorius, quindi io purtroppo ho questa sorta di malattia per papà Pastorius, che è, insomma, il dio di tutti, di tutti i bassisti. Direi quindi che è molto giustificata. In effetti sì, Richard Bona ha un'esperienza enorme con tanti musicisti importanti, e sicuramente quella con Pastorius che è stata un'esperienza fatta alla fine degli anni 90 è molto importante. Bona poi ha anche collaborato con Pat Metheny, che è un'altra invece delle mie debolezze, come noto, e continua a collaborare tuttora, pur avendo la sua band, con tantissimi altri musicisti. Va detto che è interessante, Richard Bona ha un percorso anche umano molto, molto interessante. È nato in Camerun da dei genitori che erano musicisti, anche loro musicisti africani, quindi ce l'ha un po' nel sangue, ma dopo essere stato un certo periodo in Camerun è poi emigrato in Germania, dalla Germania è andato in Francia e dalla Francia è andato a New York, dove adesso vive, quindi ha anche assorbito tantissime sensazioni, sensibilità musicali di paesi occidentali diversi tra loro, perché sì, è vero che parliamo sempre di jazz, ma poi anche il jazz ha delle sfumature diverse a seconda del paese in cui si estrinseca, in cui si realizza. Di Richard Bona vi devo dire almeno un'ultima cosa, cioè che anche lui verrà a suonare, in questo caso qui a Bruxelles, altro concerto sicuramente da non perdere, con un sestetto, il 28 ottobre, un mercoledì, suonerà a Flaget, allo studio 4 di Flaget, 28 ottobre alle 20:15, Richard Bona Sextet. Vi abbiamo dato un assaggio, credo che sia un buon motivo anche per andarlo ad ascoltare dal vivo, e sicuramente non deluderà. Io sono andato ad ascoltarlo 2 anni fa a Ghent dal vivo, e sicuramente è una persona che trasmette anche moltissimo al pubblico, che è importante quando si parla di concerti dal vivo. Adesso facciamo un salto, ritorniamo negli Stati Uniti, ma facciamo anche un salto di genere, se vogliamo. All'interno della fusion ci sono cose molto diverse, no? Abbiamo ascoltato qualcosa legato un po' alla musica etnica, qualcosa legato al rock. Adesso passiamo a Dave Coates. Dave Coates, direi, è la fusion che è più vicina allo smooth jazz, no? Se vogliamo cercare di dare delle etichette. Dave Coates è stato spesso così paragonato o messo in parallelo con David Sanborn, quindi suona il saxo e il sassofono, ed è un sassofono molto soffice, quel sassofono che si può ascoltare in sottofondo in alcuni casi quando ci si vuole rilassare o si è in buona compagnia, che male non fa in certi casi, quindi può aiutare. Quindi potete già immaginarvelo, e adesso, oltre a immaginarvelo, lo facciamo anche sentire. È da un disco del 96 che si intitola Off the Beaten Path. Il pezzo si intitola Don't Look Back, e il sassofonista che sentirete immediatamente è Dave Coates. Dave Cutts, pezzo avete sentito molto di ambiente, Don't Look Back era il titolo. Di Dave Cutts potremmo dire che ha anche qualcosa a che fare con la radio. Lui ha avuto un programma radiofonico per molti anni, e un programma radiofonico di smooth jazz. Chi meglio di lui ne poteva parlare per sollecitare sensazioni. Vedo che di là in effetti si sono molto ammorbiditi con questo, con questi ambienti. Che ne pensate? È adatto per certe situazioni di relax? Sicuramente lo definirei un easy listening, diciamo abbastanza facilmente comprensibile, specialmente questo brano poi iniziava con questa chitarra acustica abbastanza anomala per un, diciamo, una formazione che viene direttamente dalla fusion, però diciamo come sempre la resa sonora è sicuramente di buon livello, specialmente insomma ottimi fraseggi, poi si sente l'influenza dell'etichetta GRP americana che è gestita dal buon Dave Grusin, quindi ha creato anche lì un panorama di artisti abbastanza legati a questa fusion che sicuramente, anche se easy listening, però non ci dimentichiamo che è di ottimo livello, ottimi strumentisti, insomma. Sì, in effetti hai ragione, quella, una delle caratteristiche della GRP, ma anche di altre case discografiche, è creare una sonorità che poi si possa in qualche modo ritrovare nei vari artisti, in modo che poi anche chi deve comprare dei dischi, se non conosce l'artista ma riconosce l'etichetta, e si può allargare così la gamma. Non vale solo per GRP, vale per le ECM, vale per la Verve, la Blue Note, e questo è un modo importante naturalmente, ed è importante preservare questo tipo di sonorità. È vero che sì, è un suono molto legato anche alla West Coast. Sì, sicuramente. Io no, una cosa che vorrei dire che mi è rimasta impressa una volta che ho letto di Dave Cutts è che quando lui si è avvicinato alla musica imparando il pianoforte, la madre, a quanto dice lui, ha obbligato lui e la sorella a suonarlo e lo ha odiato, però la ringrazia moltissimo perché attraverso il pianoforte è riuscito a scrivere molte delle sue canzoni. Credo che questo sia molto importante e credo che la lezione che dovremmo imparare da questo, e mi rivolgo alle giovani madri che sono in ascolto, è: obbligate i vostri figli a suonare il pianoforte. Io ho imparato a 40 anni, cioè non ho imparato a 40 anni, e vi assicuro che è molto importante, che la nostra vita può cambiare con la musica. No, è vero, il pianoforte sicuramente rimane uno strumento di base sia per anche per i musicisti, perché molto spesso la composizione avviene proprio sulla tastiera. Beh sì, se posso intervenire, chiaramente da musicista non professionista, però anch'io insomma ho suonato per anni il basso, poi mi sono trovato ad avere l'esigenza di capire la struttura, comunque l'architettura delle armonie della musica e della composizione, che solo il piano può diciamo far capire veramente, perché sicuramente spiega bene la verticalità degli accordi, insomma diciamo le costruzioni armoniche, poi quindi è lo strumento principe per apprendere poi gli altri strumenti. Sì, anche per poter apprezzare poi certe cose musicali, certe strutture. Bene, siamo sempre su Radio Alma 101.9 Bruxelles, il programma, ve lo ricordo, è Jazz Dintorni. Io sono Stefano, alla console, alla regia e alla scelta dei pezzi, quindi mi assumo tutte le responsabilità, però sono in buona compagnia, Gianni e Alberto che voi sentite, con cui così condividiamo insieme questi ascolti, cercando di tenervi compagnia sempre e solo insieme alla buona musica. Stiamo parlando oggi di fusion, a questo è dedicata la puntata odierna, e siamo pronti a farvi sentire un nuovo pezzo, il quarto pezzo di oggi, che è in qualche modo legato a quello di Dave Cutts. Se io dico Chris Botti, a che cosa vi fa pensare? Riguardo agli ospiti, sempre a questa musica così, abbastanza facile, diceva prima Alberto giustamente, musica che arriva facilmente. Prima abbiamo sentito Dave Cutts, che è un sassofonista, adesso Chris Botti è suona la tromba, è un trombettista, e anche lui crea queste atmosfere decisamente di smooth, questa ci avvicinerà ancora di più a capire questa definizione di smooth jazz che spesso viene utilizzata per questo genere. E il pezzo che ascoltiamo è un pezzo tratto da un disco del 2005 che si intitola To Love Again, il pezzo. Invece il titolo il disco si intitola To Love Again, mentre il pezzo si intitola What Are You Doing The Rest Of Your Life? Questa è una domanda che forse ci faremo spesso. Ma l'altra particolarità è che in questo pezzo canta Sting, lo riconoscerete anche lui inconfondibile. Quindi Chris Botti, What Are You Doing The Rest Of Your Life? What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life. Just spend it all with me. All the seasons and the times of your days. All the nickels and the dimes of your days. Let the reasons and the rhymes of your days. I'll begin and end. I want to see your face in every kind of light. I feel the dawn of forest in the night. And when you stand before the candles on your cake, may be the one to hear the silent wish you make. Those tomorrows waiting deep in your eyes. I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two. Through all of my life, summer, winter, spring and fall of my life, all I ever will recall of my life is all of my life with you. Chris Botti, in un pezzo intitolato What Are You Doing The Rest Of Your Life, che si intitola La Voce di Sting, è sicuramente un'atmosfera che è molto congeniale a questi, tutti e due i musicisti direi, perché sia la voce sia la tromba si univano molto bene in questo pezzo che appunto sicuramente è di fusion, ma la fusion che appartiene allo smooth jazz. Ma direi che è interessante notare anche un po' alcune origini di Chris Botti, no? Gianni, che mi dici su Chris Botti? Beh, sì, una cosa molto interessante che ho detto di lui, intanto lo diciamo prima, anche nel caso di Botti la madre era pianista e quindi di nuovo il discorso del piano che esce fuori. E poi che ha passato, noi siamo italiani qui, consideriamo questa una trasmissione quasi italiana, anche se la musica poi non è italiana, però ha passato 2 anni della sua infanzia in Italia e sicuramente questi anni hanno avuto un'influenza importante su di lui, tanto è vero che, non so se è l'ultimo, degli ultimi album che ha prodotto, che si chiama per l'appunto Italia, è dedicato a queste sue radici lontane italiane e dovremmo essere orgogliosi per questo. No, è vero, poi il fatto che lui, che ormai è un artista affermato negli Stati Uniti, non è che ha bisogno di gigionerie o di cercare nuovi mercati, abbia dedicato un disco chiamandolo Italia e inserito in questo disco alcuni pezzi che sono anche insomma un po' collegati con la nostra tradizione musicale, sia classici come c'è un Ave Maria dentro, sia alcuni più moderni come il famoso pezzo Estate di Bruno Martino. Beh, insomma, direi che prova il fatto che continuano a mantenere, appunto, come dicevi prima, un legame importante. E sul piano del suono, qui Gualdo Alberto, direi che anche in questo caso riproduciamo un suono pulito, netto, certamente di fasci d'ascolto, ma non per questo meno sofisticato. Sì, sicuramente di facile ascolto, ma sicuramente molto molto molto tecnico, specialmente in alcuni passaggi, con delle sonorità veramente da brivido, e oserei dire che chiaramente il connubio con la voce di Sting, che insomma notoriamente è abbastanza, lavora con molte persone, però si presta benissimo poi al calore di una tromba come questa qui, si sente un po' di sordina, un po' di effetto che anche no, è vero, se hai ragione, spesso Chris Botti usa la sordina, sì, questo sì, anche sì, è un effetto importante. È un effetto, un ottimo effetto che poi si sposa benissimo su un brano del genere. E poi sinceramente io volevo fare un'osservazione sul fatto del maestro Martino del pezzo Estate, che a volte ci dimentichiamo che abbiamo questa musica lounge, questa musica diciamo abbastanza da ascolto rilassato, però ci abbiamo anche noi degli ottimi esponenti. Io penso che è sicuramente un ottimo pezzo di smooth jazz anche la versione originale. No, è vero, è talmente vero quello che tu dici, che il pezzo Estate in effetti è stato ripreso anche da molti altri musicisti. Io ne ho in mente un pezzo fatto da, sempre una esecuzione fatta da Monty Alexander. Ci sono molte cantanti che eseguono Estate, quindi diciamo che in un contesto che è più vicino a, cioè jazzistici, ma più vicino alla fusion, e quindi noi abbiamo anche noi degli standard, potremmo dire, che poi sì, vengono utilizzati. Assolutamente, infatti alcuni passaggi proprio della linea melodica del brano si prestano benissimo, infatti ripeto, non è casuale secondo me la scelta di Chris Botti di fare un pezzo del genere, perché proprio secondo me, come ha scelto la voce di Sting, poi ha scelto di fare un pezzo del genere, insomma diciamo... Sì, va detto che questi musicisti ormai affermati come Chris Botti in realtà hanno anche la possibilità di scegliere con chi lavorare, esatto, che è un grande vantaggio e che non fa altro che aumentare ancora di più il loro spessore o la loro capacità di trasmettere la musica che vogliono trasmettere, possono un po' scegliere, quindi è importante. Purtroppo, a differenza dei musicisti precedenti, non posso dirvi che Chris Botti verrà a Bruxelles, almeno per il momento non è previsto, anche a me piacerebbe molto sentirlo dal vivo, non ho mai avuto occasione, però no, non sono previsti i suoi concerti. Invece è previsto un concerto per il prossimo musicista che ascolteremo. Il prossimo musicista è un cambio un po' radicale, quindi me ne scuso con gli ascoltatori, perché li ho portati li abbiamo portati a navigare su questa così sonorità abbastanza semplice, abbastanza legata, semplice nel senso come ascolto, non certo come esecuzione, Adesso ci muoviamo verso qualcosa di un po' più complesso da definire, è il suono ECM, potremmo dire, come dicevo prima, perché Jan Garbarek, che è il prossimo musicista che faremo ascoltare, è un musicista, un sassofonista piuttosto sofisticato nelle sue espressioni, ha toccato tantissimi generi, ha suonato con Keith Jarrett, ha suonato con tanti altri musicisti importanti, ha un suo gruppo con cui ha suonato anche con Lillard Ensemble, quindi con un gruppo diciamo più di musica vocale, rinascimentale, barocca, quindi si è mischiato un po' con tutto. In questo caso lo ascoltiamo da un disco del 1999, un disco molto bello che si intitola Rights, anche il titolo del pezzo è interessante, si intitola One Ying for Every Young. Quindi Jan Garbarek, che dopo vi dirò quando e dove suonerà qui a Bruxelles, ma sappiate che verrà molto presto. Quindi One Ying and One Young, Jan Garbarek. Continuare ad ascoltare questo Jan Garbarek, potremmo sentirlo fino alla fine della trasmissione, sicuramente non ci annoieremo intanto lo lascio in sottofondo, ma come vi ho promesso vi dico anche quando verrà qui a Bruxelles, è importante, ed è il 15 di ottobre al Cirque Royal alle 20:15, è un giovedì il 15 ottobre, c'è lo Young Arbarek Group, sicuramente un concerto da non perdere. C'è purtroppo un lato negativo nel fatto che venga il 15 ottobre, ed è che lo stesso giorno, come già vi avevo annunciato l'altra volta, c'è un altro concerto che è imperdibile, e che è quello del Marcin Wasilewski Trio, forse meno noto, ma è un grande pianista polacco molto molto bravo, e che purtroppo anche lui suona qui a Bruxelles il 15 ottobre, quindi sarà un po' difficile scegliere, visto che sono tutte e due allo stesso orario, no? È un po' difficile dividersi in questo caso. Però ci sono anche vari altri concerti, prima ho detto di Verbier, forse Gianni ci può dire qualche altro suggerimento da ascoltare, da cominciare a puntare sull'agenda, perché sono dei interessanti concerti. Sicuramente, poi dopo questa selezione fantastica che ha messo insieme Stefano sono sicuro che ne avrete una gran voglia. Due cose da segnalare in particolare che riguardano il terzo Festival Internazionale Jazz a Verbier, che si svolge dal 2 al 4 ottobre. In particolare volevo segnalarvi venerdì 2 ottobre alle 8 di sera al Grand Théâtre si esibiranno Steve Uben Quartet e Tania Maria Quartet. Tania Maria, se posso intervenire, Gianni, certo. È veramente una interessantissima cantante, dal nome capirete subito che parliamo di Latin Jazz, quindi delle vocalità brasiliane molto interessanti, è ormai una di una certa età, non so dirvi quale, anche se lo sapessi essendo una signora non ve lo direi, ma mantiene intatte le sue capacità sonore, quindi sicuramente è un concerto molto interessante. E poi, certo, non posso non segnalare che c'è una serata italiana il sabato 3 ottobre, sempre a Verbier, e sempre alle 8 di sera al Grand Théâtre si esibiranno Paolo Fresu e Nguyen Le, e nella seconda parte del concerto Rosario Giuliani. Sì, Paolo Fresu, per chi mi ha ascoltato altre volte sa che è un altro dei miei musicisti preferiti, sia come musicista sia come persona, veramente è una grande figura del jazz italiano, ma non solo italiano, ormai europeo e mondiale. E Nguyen Le è un chitarrista, anche lui molto bravo, che suona spesso con Paolo Fresu, ed insieme fanno anche delle parti, così, dei pezzi abbastanza sperimentali ma estremamente interessanti. Senz'altro sarà un concerto, una soirée italiana da non mancare a Verbier. Adesso sentiremo invece un altro tipo di fusion, ancora diverso, una fusion cantata, ma in questo caso da un musicista, da un cantante maschile. Non abbiamo spessissimo dei cantanti maschili nella parte fusion, certamente possiamo pensare per certi aspetti a Michael Bublé, però andiamo su un genere un po' diverso, non è un vero e proprio fusion, ma andiamo su un genere di cantanti da intrattenimento, mentre Michael Franks ha proprio anche come voce, sentirete, una caratteristiche che si legano bene con il genere che abbiamo ascoltato finora. Questo disco di Michael Franks è un disco del è un disco del 1993, si intitola Dragonfly Summer, e il pezzo che invece è tratto da questo disco si intitola Practice Makes Perfect, anche questo direi un titolo significativo. Quanta verità in questo titolo, vediamo come viene interpretata da Michael Franks. Perfection's me and you. Practice me. perfect. There is no self-defense when it comes to love. Practice makes perfect. Each time you look that up, it's instantaneous attraction. I guess you wrote the book on how to drive me to distraction. Era Michael Franks, avete sentito che voce che riesce a inserire in queste atmosfere. Il pezzo era Practice Makes Perfect, si sentiva spesso ripetuto, e Michael Franks sicuramente è un personaggio importante nella scena della fusion, che ha fatto molte cose, che ha composto moltissimo, e anche che ha un po' una storia particolare. Di composizioni sicuramente sono importanti. Infatti vedo, insomma, nel suo background, diciamo, abbiamo molte collaborazioni, specialmente abbiamo parlato prima di David Sanborn, la collaborazione con David Sanborn, che insomma si risente sicuramente un ambito abbastanza comune ai due. Poi la collaborazione con Manhattan Transfert, che insomma non c'è niente da dire sui Manhattan Transfert, diciamo ha scritto molti brani per i Manhattan Transfert che hanno interpretato sicuramente molto bene, E come dicevi tu, Stefano, sicuramente è una cosa un po' atipica, perché normalmente la voce della fusion è sempre lasciata spesso alle signore. Sì, e poi Michael Franks ha questa voce veramente particolare, come tonalità, esatto, che riesce a produrre. Esatto, però comunque con le sonorità, insomma, queste sonorità di questi di questo periodo storico della fusion, diciamo, ci si presta benissimo, perché specialmente, non so se avete fatto caso, ai bassi abbastanza elettronici, alla batteria abbastanza regolare, quindi è proprio perfetta per quel genere di musica, contrariamente a quanto abbiamo sentito prima di Sting, che si appoggiava su un genere un po' più acustico, cioè il contrabbasso, quindi una scelta un pochettino più calda. Qui la sua voce potrebbe sembrare fredda, ma sicuramente rende molto bene con l'ambito della composizione, l'ambito compositivo. Sì, Michael Franks non è proprio un ragazzino, potremmo dire, non è uno dei giovani. No, sicuramente. Ha sicuramente prodotto moltissimo negli anni 90, a partire dagli anni 80, infatti è nato nel 1944. Però ci sono delle, sai, come tutti i personaggi musicisti, ha delle particolarità. È un vero talento, perché è l'eccezione che conferma la regola. Abbiamo parlato prima dell'importanza dell'educazione musicale che viene data nella famiglia. Ecco, nel caso di Michael Franks questa educazione non c'era, perché nessuno suonava uno strumento in famiglia, anche se i suoi genitori a quanto pare erano amanti della musica swing. E la storia sempre racconta che a 14 anni Michael comprò la sua prima chitarra, anche questa chitarra che costava soltanto $29, all'epoca erano comprese 6 lezioni private, e sembra che queste siano le uniche lezioni di musica che lui abbia mai avuto al di là del proprio talento. Sì, ci sono delle persone che veramente hanno la musica dentro, e quindi se hanno un'occasione per poi esprimerla possono così tirare fuori delle cose straordinarie, questo sicuramente è vero. Bene, io avrei quasi desiderio di farvi sentire un altro pezzo, ma in realtà ve lo farò sentire per pochissimo tempo, perché come al solito si dice sempre il tempo è tiranno, e noi abbiamo anche cercato di descrivervi un po' i musicisti, non solo farvi ascoltare. L'ultimo musicista che voglio farvi ascoltare è George Benson, è notissimo, non c'è niente da dire, e anche questa canzone è molto famosa, The Greatest Love of All. Vi farò ascoltare così un breve estratto da questa canzone, però voglio sicuramente approfittare per ringraziare Gianni e Alberto che sono stati qui, speriamo di riaverli presto, e grazie per essere venuti. È stato un piacere. Grazie a tutti e buonasera. Bene, adesso vi lascio con George Benson e poi ci sarà la sigla finale, e vi aspetto naturalmente per la prossima trasmissione, martedì prossimo, anche quella sarà a tema, il tema non ve lo dico, è una sorpresa come sempre, però sempre su Radio Alma 101.9 e con Stefano e Jazz Editor. Adesso veramente arriva George Benson. The children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter mind of how we use to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll live before you. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the